Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è chi ci prova e c'è chi passa la mano, chi smette dall'oggi al domani e chi invece ha bisogno di tempi più lunghi, chi chiude definitivamente e chi ogni giorno combatte con la tentazione e deve soffocare la voglia. Va così, succede anche nelle storie d'amore e non solo. Buongiorno da Nicoletta Carbone, benvenuti, sono le 11:11, oggi torniamo a parlare di fumo. Bisogna smettere, questo lo abbiamo capito, e anche a riprovare a smettere se abbiamo ricominciato. Smettere è difficile, ma io credo che continuare a ripetercelo non ci aiuti più di tanto. Invece proviamo a pensare che è possibile. Pensate ad esempio ai vostri amici, ai vostri colleghi, a qualcuno che ce l'ha fatta. In linea con noi abbiamo il professor Pier Giorgio Zuccaro, direttore dell'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga all'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno. Buongiorno. Dottore, cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Al momento, quanti ce l'hanno fatta? Beh, guardi, nel corso degli anni ce l'hanno fatta moltissimi, sono milioni gli ex fumatori. Noi calcoliamo all'incirca 5 milioni di italiani che in questi anni sono riusciti a smettere. Quindi questa è la dimostrazione che ci si può riuscire. Ognuno di noi ha degli amici che hanno smesso, certo, se non parenti. Quindi è una realtà diffusa. Ecco, quindi è un po' un alibi che è difficile, che non si riesce a smettere. È un alibi perché chi non riesce a smettere cerca di prendersela con qualcun altro e non certamente con se stesso. Senta, abbiamo guardato il bicchiere mezzo pieno, ora tocca dare proprio un rapido sguardo a quello mezzo vuoto, dove troviamo 11 milioni di italiani e sono equamente distribuiti quasi tra uomini e donne, vero professore? Sì, infatti la grossa novità di questi anni è che la percentuale di fumatori uomini e donne si sta avvicinando, perché gli uomini sono sempre di meno quelli che fumano, però partivano da valori alti, le donne incrementano ma di poco. Fra qualche anno pensiamo che avremo tanti uomini e tante donne. Questo è un pochino, rispetto alle dipendenze, un pochino una cosa, un dato anomalo. Dico dipendenze perché tutti sappiamo che la nicotina crea dipendenza, quindi nessuno si deve adombrare se chiamiamo, diciamo, che chi fuma è una persona dipendente. E quindi diciamo è anomala perché, per esempio, per le sostanze d'abuso tradizionali il rapporto uomo-donno è estremamente sbilanciato a favore degli uomini. Ci sono circa, per le tossicodipendenze maggiori, quindi il rapporto è 5 a 2, ogni 5 uomini c'è una donna, quindi un uomo, una donna, e quindi chiaramente è un pochino diverso. Il fumo, per dire che c'è è accettato socialmente, questo vuol dire chiaramente, quindi anche le donne che sono più ligge. Come per vedrà che ci riprendiamo subito, siamo scivolate in questo tranello, ma vedrà che... Professore, voi con tutti i dati che avete a disposizione siete anche capaci di costruire l'identikit del fumatore, chi è, cosa fa, dove vive, ma soprattutto quanto fuma? Guardi, il fumatore, il numero medio di sigarette fumate è intorno a 13-14, e questo numero si è andato abbassato negli anni, però chiaramente, come tutte le medie, non tiene conto che abbiamo uno zoccolo duro di grossi fumatori, che sono quelli che fumano uno o più pacchetti al giorno, sì, e poi ci sono quelli che chiaramente fumano, anche quelli fumatori saltuari, una o due sigarette, e alcuni ci sono alcuni che riescono a fumare una o due sigarette per tutta la vita, e però ci sono, però tutti quelli che oggi fumano un pacchetto hanno cominciato con una o due sigarette, un pochino questo da tener conto, perché il percorso è sempre individuale rispetto all'abuso di tabacco. Professore, ci sono già alcuni messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 e devo dire che molti di questi mi dicono: ho smesso grazie a voi. Noi abbiamo parlato tante volte di fumo, di come smettere di fumare, abbiamo fatto il nostro primo reality radiofonico, abbiamo seguito due donne che volevano smettere, insomma ci siamo impegnato. Ma c'è un sms di Piero che è un po', tra virgolette, polemico. Negli ultimi tempi mi sembra che la battaglia contro il fumo non sia più di moda. Professore. Io concordo pienamente, mentre l'impegno vostro, per esempio, per chi ho seguito, è stato sempre costante e continuo, anche lo ridimostra il fatto che lei mi ha chiamato oggi, e quindi io la ringrazio perché mi dà l'opportunità di parlare di nuovo e di tenere vivo l'argomento. E mi sembra che l'autorità sanitaria, il governo, sia un pochino poco attento. Le spiego, noi abbiamo chiesto delle misure, per esempio dare i farmaci gratuiti per chi vuole smettere di fumare, abbiamo detto di aumentare il prezzo delle sigarette probabilmente per questo scoraggio i consumi, di favorire i centri antifumo, nel senso che oggi ci sono questi antifumo che sono in tutte le regioni italiane, ma bisogna pagare un ticket. E qualcuno dice: ma il ticket è poco, però voi deve capire che chi fuma chiaramente non ha voglia di smettere, quindi trova sempre degli alibi, e questo può essere anche il fatto che non sia gratuito, che l'accesso non sia libero, come dovrebbe essere, perché in fondo è un investimento per lo Stato se la gente smette di fumare. È un risparmio, anche se è un risparmio a lunga scadenza, capito? E quindi lo Stato guarda sempre al bilancio annuale, ecco, non si può permettere, direi, certe volte la lungimiranza di dire: oggi ho meno entrate, ma nel futuro ne avrò di più. Professore, lanciamo un appello, Farmaci gratuiti, centri senza ticket e prezzi delle sigarette più alte. Certo, e soprattutto per i fumatori, ricordarsi che noi abbiamo un telefono verde 855 40 88 che è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 16 del pomeriggio, sono 12 anni che stiamo lì, quindi ci potete chiamare, è gratuito, chiaramente tutte le informazioni, vi possiamo dare i centri di fumo più vicini, fate una telefonata, provate. Basta una telefonata, sono 375 i centri antifumo, sì. E adesso ci sono anche delle novità, ne parleremo nel corso della trasmissione, perché ad esempio a Milano si aggiungono 5 centri antifumo, se vogliamo dire un po' anomali, mi piace definire un po' prêt-à-porter, perché arriva il centro antifumo, arriva anche in farmacia. Professor Zuccaro, io la ringrazio per essere stato con noi. Intanto noi ci sentiamo presto. Buona giornata. Grazie a lei, arrivederla. E noi continuiamo a cercare di fare qualcosa, andiamo avanti e io vado avanti presentandovi gli ospiti che ho in studio con me. Abbiamo qui accanto a me il dottor Tommaso Dragani, che è direttore dell'unità operativa di genetica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Lei ce ne racconterà delle belle. E abbiamo, naturalmente, quando parliamo di fumo, abbiamo il nostro, posso dire nostro? Certo. Il nostro dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e direttore del centro antifumo di uno di quei 375. Certo, che adesso sono diventati 380 per merito dei 5 in farmacia, di cui poi parleremo. Dottor Boffi, quante ne abbiamo fatte? Perché dal reality al forum, agli amici che ci hanno scritto, agli amici che sono intervenuti. Bisogna dire basta, e ho cercato di cambiare quelle abitudini che portano alle sigarette, cioè il caffè dopo pranzo. Sembrerà una sciocchezza, però se ti offrono una sigaretta, ad esempio, è meglio dire grazie non fumo e non grazie ho smesso. Quello che in realtà bisognerebbe continuare a dire come un disco è che non c'è un pregio nel fumare. Capelli, sangue, cuore, qualunque prestazione, fare le scale, fare uno scatto, giocare a pallone, ma non parliamo della zona appunto dei cancri, i tumori, la pelle, i denti, le dita, il giallo, il fumo, e baci la tua ragazza e le sembra di baciare un portacenere. Non c'è un pregio. Io ho smesso assolutamente, gradatamente. Sì. Tra l'altro, diciamo, ho cominciato pian piano a diminuire, insomma, dandomi così delle regole, cioè non fumando per esempio più a casa. Pian piano ho cominciato a darmi degli obiettivi. Benissimo, non ne fumo più di 10 al giorno. E non hai avuto più tentazioni in momenti di stress particolare? No. Forse, ecco, in un momento magari particolare di stress, dopo magari un lavoro molto impegnativo, dico: ecco, adesso mi farebbe piacere una sigaretta, ma sono però proprio desideri molto molto episodici, cioè mi dà fastidio l'odore del fumo. Sì. E mi dà fastidio sentire gli altri che mi fumano intorno, e sono molto contenta di aver smesso, non ho proprio nessun rimpianto. Sono abbastanza, credo, un tipo anomalo, perché io ho fumato per 40 anni, fumavo 20-30 sigarette al giorno, e poi a un certo punto ho deciso di smettere, e ho deciso di smettere perché per la voce, per esempio, per il canto non mi ha procurato mai nulla, non mi ha mai dato fastidio. L'unico problema è che chiaramente ti lascia la parte faringe, trachea, eccetera, sempre infiammato, per cui come comincia a far freddo, come cominciano ad arrivare le influenze, io ero sempre malato. Però mi dicevano: se smetti di fumare vedrai quanto fiato ti viene di più. Io dicevo: ma non scherziamo, capirai, capirai. Beh, dopo un po' di mesi che avevo smesso di fumare, io adesso delle frasi musicali che prima facevo respirando due, a volte tre volte, prendo due o tre respiri, adesso li faccio con uno solo. Io quello che dico nel libretto è che bisogna che la gente smetta di considerare i fumatori come dei viziosi, sì, perché non sono dei viziosi ma sono dei dipendenti da una sostanza tossica. Sì. E quindi ovviamente io ho raccontato anche tutti i problemi che si soffrono per l'astinenza da fumo. Sì. Però a questo punto io ho smesso di fumare 4 anni fa e sono fierissima di poterlo dire. Non ne hai più accesa neanche una? Mai. Mai. Anche perché, come dico nel libro, accenderne anche una sola è pericolosissimo. Li avete riconosciuti? Flavio Insinna, Bianca Berlinguer, Ricky Gianco e Carmen Covito. Dottor Boffi, lei se lo ricorda perché lei era qua. Beh certo, poi con affetto, sono persone molto simpatiche che hanno sicuramente dato dei messaggi molto utili, che sintetizzerei così, che ogni fumatore deve trovare il suo metodo per smettere di fumare, però è bello riuscire a farlo, secondo me, non solo per paura dei danni ma anche con la forza di un sorriso, come queste persone ci hanno ispirato. Però, sorriso a parte, c'è proprio chi non ce la fa, tenta, fallisce, cade, ricade, quasi che fosse scritto nel DNA. In altre parole, alcune persone sarebbero geneticamente più portate a fumare, colpa di una variante genetica di cui il dottor Dragani sa tutto, perché il lavoro che è pubblicato su questa prestigiosa rivista, che è il Journal of the National Cancer Institute, porta proprio la sua firma. Tra l'altro un lavoro, dottore, finanziato dalla Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Di recente si parla sempre più spesso di geni, ne abbiamo parlato anche noi, perché sa, dottore, che c'è anche un gene del tradimento, no? Non penso che nessuno abbia l'idea di andare dal dottor Dragani a farselo cercare, ma invece c'è questo gene che, perché hanno sempre questi nomi così difficili? Aspetti che mi metto gli occhiali, CHRNA5. CHRNA5 è il gene coinvolto con l'abitudine al fumo e il nome significa che è un recettore della nicotina. Con noi siamo riusciti a individuare questo gene, a scoprire il meccanismo molecolare associato con alcune varianti genetiche che predispongono alcuni individui a una maggiore abitudine al fumo e anche poi a un rischio maggiore di tumore polmonare e di altre malattie correlate al fumo di sigaretta. Quando noi leggiamo "trovato il gene responsabile di", non ci immaginiamo di tutto il lavoro che c'è dietro. In effetti non è che si trova per caso, è no, frutto adesso di anni e anni di studio, di confronto, di milioni di individui, vero? Certo, è un lavoro complesso, ma adesso la genetica dispone di nuove armi molto efficaci che permettono di individuare i geni coinvolti nelle malattie comuni attraverso il confronto del DNA di migliaia di individui malati con il DNA di migliaia di individui sani. Però questo non sembra banale, non è così semplice, poi occorrono conferme sia in provetta, in laboratorio che in altre popolazioni. Dottore, quando noi abbiamo letto la notizia, insomma, sembra quasi che sia una scusa in più per non smettere di fumare, no? Una giustificazione anche a non provare a smettere. Invece l'identificazione di questo gene vuole trasformarsi in uno strumento più efficace per affrontare con successo, mi passi i termini, il dottor Boffi non vorrà, ma i casi difficili, no? Dottore. Certo, sì, secondo me è un'opportunità in più che abbiamo adesso e che può permettere di individuare le persone che sono geneticamente predisposte a fumare e che quindi hanno più difficoltà a smettere. Però una volta che c'è questa individuazione, a queste persone si possono offrire degli strumenti maggiori, sia di tipo terapeutico che anche psicologico, e quindi un supporto individualizzato affinché smettano di fumare. fumare e non riprendono l'abitudine al fumo. Quindi sempre di più una terapia cucita su misura, dottor Boffi. Personalizzata, sì. Anche recentemente è uscito un articolo molto importante di uno psicologo inglese su British Medical Journal, che si chiama Robert West, che pone delle regole, ipotizza, la chiama la regola delle 3D per aiutare i fumatori, delle 3T per aiutare i fumatori. T come tavolo? Sì, T come tension, trigger e treatment. Tension vuol dire avere, raggiungere nel fumatore una giusta tensione emotiva. Sì. Che sembra facile, ma spesso le paure diventano, come diceva lei prima, degli alibi anche. Il treatment è quello che diceva prima il professor Zuccaro, cioè avere a disposizione un supporto psicologico e medico adeguato, meglio se di un centro antifumo specializzato, accessibile facilmente. E terza cosa, proprio quella che diceva adesso Tommaso Dragani, cioè il trigger, la molla motivazionale, il momento tangibile per stabilire una data per il fumatore in cui decidere di provare a smettere qui adesso. Un test genetico può essere, magari, perché no, questa molla. Se volete parlarne con noi e volete raccontarci anche la vostra storia, se avete trovato la motivazione, se invece non siete riusciti a compiere questo percorso proprio perché vi siete sentiti un po' abbandonati. 800 24 00 24, ma starei proprio tra i geni, perché i ricercatori dell'unità di genomica funzionale dell'Università di Oxford hanno scoperto un gene responsabile di una forma di mal di testa, l'emicrania con aurea. Il suo nome è TRASC e noi abbiamo in linea il professor Barbanti, che è primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore, diciamo che è la prima volta che è stato individuato questo gene, vero? È la prima volta e questo sembra un vero passo avanti. Fino adesso erano stati trovati geni per alcune sottoforme di emicrania con aura, molto rare per la verità. Questo tipo di gene invece sembra essere implicato in una forma di emicrania che riguarda il 30% degli emicranici, chiamata emicrania con aura. E in intenderci, un mal di testa emicranico preceduto per circa 30 minuti da disturbi tipicamente della vista, altre volte disturbi della sensibilità a carico di un braccio o di metà del volto. In realtà noi sapevamo da studi clinici che i soggetti con emicrania con aura hanno una corteccia cerebrale più eccitabile, quindi una corteccia cerebrale che non sta mai a riposo, e questo correla anche con la frequente associazione di ansia, qualche volta panico, ma anche creatività e destro in questi soggetti, i quali vengono da noi piuttosto spaventati dicendo: in realtà il mio papà ce l'aveva, la nonna o un cugino. L'aspetto importante di questa scoperta sta nel fatto di aver identificato un canale del calcio, del potassio, che si chiama appunto TRASC, il quale sembra essere proprio sospettato di quel fenomeno, che ha un nome molto difficile, cortical spreading depression, sostanzialmente una specie di iperattività della corteccia cerebrale, seguito poi da un riposo compensatorio, che è alla base dell'emicrania con aura. Quindi un vero passo avanti. Da questo passo avanti, ne succederanno altre con formulazioni di farmaci ad hoc, professore? Senza dubbio sì. Noi fino adesso, se mi permette una frase non molto scientifica, abbiamo nella prevenzione emicranica l'arte del riciclato. Utilizziamo farmaci impiegati per altre patologie. Sì. Attualmente usiamo molto gli antiepilettici. L'avere identificato in questa forma di mal di testa non rara, finalmente non rara, un specifico gene implicato avrà ovviamente nel corso degli anni come logica conseguenza lo sviluppo di molecole specifiche per compensare quel difetto genetico, cosa che per la cura dell'attacco con i triptani è stata fatta 20 anni fa. Nelle cure preventive ancora non esiste. Sappiamo che l'emicrania ha straordinarie capacità ormai di contenimento anche con farmaci preventivi, però, ma qui la lotta è sulla tollerabilità. Tanto più specifico il farmaco, e ora sembrerebbe possibile, tanto meno effetti collaterali. Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati, il meteo, poi di nuovo insieme con le vostre storie di fumo e di non fumo. Non siete nati fumatori, perché c'è stato un periodo nella vostra vita in cui non fumavate. Angelica lavora come psicologa in un centro antitumori e da un anno conduce con successo un corso antifumo a cui ci ha costretti tutti a partecipare. Era evidente che alcuni non erano adatti a quel metodo, ma Roberta è addirittura negata. L'unico modo per smettere un vizio è iniziarne un altro. Si chiama legge di compensazione, lo sapevi? Che cosa vi ho detto? Non dovete parlare tra di voi. Voi dovete concentrarvi sul fumo, sul sapore in bocca del fumo, sulla sensazione fisica del fumo che entra nella gola e va giù nel petto. Adesso fate una bella boccata tutti insieme. Com'è? Cattivo. Cosa c'è dentro una boccata? Beh, un cocktail variegato che comprende migliaia di ingredienti. La lista completa sarebbe troppo lunga perché sono già le 11.36, ma può essere utile sapere che con un solo gesto il consumatore di tabacco aspira voluttuosamente da un flacone di detersivo, una pompa di benzina, la marmitta di un'auto, esalazioni di manifatture plastiche, metalliche, vernici e parecchio altro. Di oltre 4.000 sostanze chimiche che si creano nella combustione del tabacco alla temperatura di 800 gradi centigradi, sappiamo che almeno 250 sono nocive, come nicotina, monossido di carbonio e poi acido cianidrico, usato anche nelle armi chimiche. Era il composto base per il famigerato Zyklon B delle camere a gas naziste. Ammoniaca, noto disinfettante. Toluene. Si trova negli inchiostri da stampa e nelle vernici. Perossido di idrogeno, acqua ossigenata. E 62 sono cancerogene. La maggior parte è contenuta nel condensato o catrame, come ad esempio il benzopirene, che si trova anche tra i prodotti della combustione di rifiuti indifferenziati negli scarichi dei motori diesel, a nafta, a cherosene. Arsenico, un metallo pesante tossico che i personaggi dei gialli di Agatha Christie versavano per lo più nel tè di individui sgraditi. Cadmio, un metallo tossico contenuto nelle batterie. È uno dei motivi per cui vanno smaltite a parte e non gettate tra i rifiuti indifferenziati. Cloruro di vinile, composto organico noto anche come PVC, usato nei manufatti plastici. Polonio-210, sostanza radioattiva. Secondo i ricercatori, chi fuma 20 sigarette al giorno per un anno è come se si sottoponesse a 300 radiografie. Se me lo dicevi prima, se me lo dicevi prima, dottor Boffi, se me lo dicevi prima, lei può dire io ve lo dicevo, ve l'ho sempre detto. No, io cerco con i fumatori a volte di scardinare certe loro, dei loro preconcetti, no? Magari proponendo una medicina, magari una gomma alla nicotina, un farmaco per smettere di fumare come la vareniclina, e loro mi dicono no, non voglio medicine perché io sono contrario alle medicine. E allora lì magari a volte divento anche un po' cattivo, dico ma lei lo sa che ogni volta che fuma, fuma anche l'ammoniaca che serve per pulire il water. E penso che sia comunque l'informazione sia sempre giusto darla. Facciamo un giro di telefonate perché abbiamo tanti nostri ascoltatori e vi ricordo che potete anche continuare a scriverci su Facebook. Vedo Laura Vanossi che si illumina, le piace molto. E abbiamo ad esempio Giulio che ci chiama da Lecco, poi abbiamo Luca da Bolzano, Lino da Salerno, Razzo da Firenze. Io vorrei sentire anche però le mie ascoltatrici, le mie amiche da casa, perché noi siamo temporaneamente sul libretto quello nero, no? Perché ci stiamo comportando malino negli ultimi tempi, ma io sono certa che ci riprenderemo presto. Intanto Giulio da Lecco, buongiorno. Buongiorno. Fumatore, ex fumatore, cosa, chi è Giulio? Dunque, io sono un attuale fumatore che ha smesso, diciamo, almeno 4-5 volte di fumare per periodi di tempo anche prolungati di anni, se non di mesi, che significa che a 32 anni sono comunque una circa stesso periodo passato a fumare e senza fumare. Metà e metà. Forse Giulio, dottor Dragani, potrebbe, se facesse questo test. Tra l'altro è possibile farlo, no, al momento sì. Non nei grandi numeri, vero? Sì, il test è possibile farlo nel nostro laboratorio, siamo in grado di dare una risposta anche in un paio di giorni, ecco. Il problema è che possiamo farlo su pochi numeri e attualmente non abbiamo un centro dedicato per il pubblico per effettuare questo test su grandi numeri. È una cosa che potremmo fare. Però sarebbe bello, potremmo già iniziare, ci avete già pensato, ma mi piace far finta di lanciarlo per la prima volta, cioè sarebbe bello avere un dottor Dragani che lavora con un dottor Boff in giro per l'IT sempre, no? In tutti i centri antifumo, in modo che il fumatore, ad esempio il nostro ascoltatore che dice continuo, smetto e riprendo, smetto e riprendo, sa, no? A quale profilo appartiene, per cui il dottor Boffi o il dottor Boffi di turno riesce a dare la terapia giusta. Lo faremo, penso che l'unione fa la forza, per cui noi clinici non possiamo che essere entusiasti di allearci con le nuove scoperte genetiche per fare una diagnosi più precisa di fumatore, quindi poter meglio personalizzare le terapie per smettere di fumare. Ma se uno come Giulio continua a smettere, riprendere, diceva ormai sono metà anni della mia vita li ho passati a fumare, metà no. Allora, le ha provate tu, uno che le ha provate tutte, poi dove si butta? Beh, intanto c'è da dire che comunque si è danneggiato meno, perché questo sembra banale, ma è stato anche dimostrato scientificamente. Quindi passare dei mesi o meglio ancora degli anni senza fumare riduce il rischio di malattie fumocorrelate, cardiovascolari, oncologiche. E poi quello che dovrebbe cercare di fare da solo o con l'aiuto magari di un centro antifumo è valorizzare le motivazioni che l'hanno portato a smettere di fumare ogni volta e cercare di prevenire i suoi talloni d'Achille che ogni volta invece l'hanno portato a ricadere, comunque non arrendersi. Dottore, il dottor Dragani, il dottor Boffi dice comunque gli ha fatto bene, no? Perché sospendere questa dipendenza ti regala salute. Facciamo la parte del diavolo, c'è chi invece con i numeri alla mano dice che il fumo è la prima causa di tumore polmonare, ma c'è anche chi risponde che si ammalano di tumore anche le persone che non hanno mai fumato, non sono state vicino ad un fumatore, quindi non possiamo dare la colpa al fumo passivo perché ci sono anche questi numeri. Allora oggi è proprio l'occasione per andare un pochino a sfatare se sono luoghi comuni, leggende metropolitane come quella che diceva il dottor Boffi, e chi dice non voglio aiuti, non voglio assumere la terapia di sostitutiva nicotinica perché sono contrario ai farmaci, poi uno fuma ed è uguale, se non peggio. Dottore, c'è anche chi si ammala di tumore e quindi... Sì, sono anche tanti, ecco, circa il 10% dei malati con tumore polmonare non hanno fumato, quindi sono non fumatori, e in questi individui la componente genetica potrebbe avere un ruolo ancora più importante rispetto agli individui che si ammalano dopo aver fumato le sigarette. E noi con l'associazione Marta Nurizzo da anni stiamo studiando proprio la genetica dei malati di cancro polmonare che non erano fumatori e che a volte sono ammalati anche in giovane età. Che cosa c'è di nuovo su questo fronte? Sono stati individuati anche qui dei geni, però in studi preliminari che devono essere poi confermati da studi su più larga scala. Quindi tra poco lei sarà di nuovo qui perché alla fine poi lo trovate, lo scovate. Speriamo. Dottor Boffi, rispondiamo a Luca che ci chiama da Bolzano, poi abbiamo Orazio da Firenze. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Luca, intanto grazie Luca, me li prendo e allora dato che lei mi ha fatto i complimenti io voglio che me li facciano dicendo che sono puntuale nel lanciare il traffico. Allora Luca. Sì, signora. Eccola. Dunque, io mi rivolgo alle persone intelligenti. Penso di essere intelligente, io ho smesso il 28/8/1980 fumavo e fumavo molto, poi mi è venuto un pensiero, il pensiero è cosa mi serve mandare giù del fumo per poi ributtarlo e una parte mi rimane dentro. Allora ho pensato è meglio buttarsi sulla pasta, su un buon secondo. Senta, e ce l'ha fatta e non è più caduto, come si dice, in tentazione, niente, mai. Messaggio? Non è intelligente. Dottor Boffi, lei questo non può dirlo però. Lo lasciamo dire a Luca. No, no, beh, intanto gli faccio i complimenti perché 30 anni senza fumo ovviamente parlano da soli. E comunque ha perfettamente ragione. In ogni boccata noi abbiamo dimostrato agli studi di tumori che aspiriamo le polveri sottili liberate dalla combustione delle sigarette, il 50% le tratteniamo. Entrano dentro di noi e vanno, si fa prima a dire dove non vanno. Vanno dappertutto, nel cuore, nel sangue. Dove non vanno? Penso che non sia ancora stato trovato, perché noi abbiamo cercato ad esempio la nicotina nel capello col gas cromatografo dei fumatori passivi, quindi ad esempio il capello, i peli sono ricchi nel midollo del fumo anche passivamente assunto, quindi va dappertutto il fumo, come diceva il povero Fabrizio De André, passa anche sotto le porte, penetra nei muri. Dottor Boffi, ma la persona che smette di fumare, dopo quanto tempo ritorna come un non fumatore? Beh, le prime cose, i primi benefici, tipo la frequenza cardiaca che si riduce, si hanno già dopo pochi minuti, poche ore, poi perché il tempo di dimezzamento del monossido di carbonio, che è un malefico gas velenoso in odore, in colore, in sapore, che fa venire poi gli infarti e l'ictus, è di 8 ore, quindi dopo 2 o 3 giorni già non ne abbiamo più e abbiamo più attività, più resistenza agli sforzi, più riflessi, più energia. Poi ci sono i rischi della bronchite cronica, i rischi dell'infarto, dei tumori, che ci mettono mesi o anche anni. Dopo 10 anni possiamo dire veramente di avere esaurito il bonus, quindi è come non aver mai fumato. Allora, Rosanna, hanno detto bene, perché Rosanna mi aveva scritto: è vero che se smetto di fumare dopo 10 anni ritorno quasi come una persona che non ha mai fumato? Come, direi? Beh sì, perché... Non quasi come, come? Come, sì, perché quindi... è come una lucertola che cambia la pelle, tutte le cellule della mucosa bronchiale, anche quelle infiammate, quindi più suscettibili a diventare oncologiche, vengono sostituite. C'è anche un'altra giustificazione, no? Non smetto di fumare perché tanto vivo in una città inquinata, e lo dicono i milanesi e non solo, cosa smetto a fare? Abbiamo già parlato col dottor Dragani, rivolgendosi a chi dice: voi dite che il fumo fa venire il tumore al polmone, ma se io conosco, no, il mio vicino di casa, mai fumato, inquinamento e fumo, chi la vince? Ma certo, questo è un alibi che molti fumatori devono assolutamente dimenticarsi, perché è vero che l'inquinamento è responsabile di ben il 4% di tutti i tumori, non solo i tumori del polmone, quindi mi sembra una percentuale non da poco da cercare in tutti i modi di combattere, però non può essere una scusa, perché comunque c'è il problema del fumo passivo ed è dimostrato da diversi studi anche nostri, confronti tra fumo e diesel, anche quest'anno per la giornata mondiale senza tabacco abbiamo, forse se lo ricorda che le ho raccontato, confrontato le emissioni polveri sottili di una sigaretta con una BMW 3002, abbiamo dimostrato che una sola sigaretta inquina 20 volte più di una BMW 3002, per cui non può essere assolutamente l'inquinamento un alibi per i fumatori. Senta, dottor Boffi, il dottor Dragani ci ha portato delle belle novità, la ricerca va avanti e adesso abbiamo il gene e tante cose questa scoperta porterà, ma lei che cosa mi dà di buono, di novità? I fumatori che vogliono provare a smettere hanno la forza di volontà, i centri antifumo, il supporto psicologico, la terapia sostitutiva nicotinica, alcuni libri perché funzionano, la sigaretta elettronica. La sigaretta elettronica, eh? La sigaretta elettronica sì, è una novità, però non ha dimostrato almeno finora un'efficacia statisticamente significativa. Ci sono due tipi di sigarette, la faccio breve, elettroniche: quelle con la nicotina e quelle senza nicotina. Il mio consiglio in questo momento, almeno prudenziale, se dovete usarne una delle due, usate quella senza nicotina, perché almeno quelle sembra proprio che siano innocue. Sulle altre ci sono ancora delle controversie. Direi che le tre grosse novità le faccio breve, con cui perché io mi sto trasferendo in farmacia. Buongiorno dottoressa Iampietro. Buongiorno a voi. Stia lì che così le do anche delle novità anche per lei. Lei le sa. Lei è una delle tre. Una delle tre. Le altre due sono stato al congresso europeo di pneumologia proprio settimana scorsa. Sono ancora l'importanza della spirometria, cioè di fare una diagnosi precoce per la bronchite cronica, che insieme a smettere di fumare è l'unica cosa che cambia veramente radicalmente la storia clinica di questa malattia, che sta diventando sempre più frequente. Quindi anche chi fuma e chi non vuole smettere di fumare perché non ce la fa, perché da la colpa al gene, all'inquinamento, eccetera. Curarsi. Spirometria. Fare una spirometria. Fatelo un esame assolutamente innocuo. Sì. E l'altra cosa è comunque usare gli strumenti farmacologici a disposizione, perché se ne stanno uscendo studi sempre più importanti, in particolare sulla varenicline, che è stato dimostrato essere un farmaco anche non solo innocuo ma efficace anche in categorie particolari, i cosiddetti fumatori difficili, come li chiamava lei prima, cioè i cardiopatici, i bronchitici cronici. Bisogna assolutamente usarla, soprattutto noi specialisti, in questi casi di persone che devono smettere di fumare assolutamente e subito. E adesso noi ci siamo trasferiti in farmacia, in una farmacia comunale, la numero 81 di Milano, per raccontarvi questa bella iniziativa, perché il centro antifumo diventa un prêt-à-porter. Dottoressa Gianpietro, certo, possiamo dirle così, no? Sì, sì, a disposizione nelle farmacie comunali, per adesso sono 5 a Milano. Per adesso siamo 5 centri, giusto, a cui sicuramente se ne aggiungerà qualcun altro. Però diciamo che questa iniziativa l'abbiamo accolta con estremo entusiasmo, proprio perché ci rendiamo conto che la nostra presenza sul territorio, la nostra capillarità è sicuramente un supporto ideale per chi vuole un primo approccio senza andare direttamente nei centri, dove l'impegno sarebbe maggiore perché c'è l'appuntamento, perché c'è il professore a disposizione. E quindi questa nostra disponibilità immediata speriamo che venga accolta al volo da tutti coloro che hanno voglia di smettere. Certo, soprattutto che sia un'iniziativa che poi si distribuisce, no? Si contagiosa, sicuro, per tutto sicuro, il resto. Col passaparola un amico tira l'altro, il papà che ha l'ipertensione e continua a fumare, che riesce a portare magari anche il figliolo che già fuma, o l'amichetto. E via, un farmacista per amico, per smettere di fumare. Grazie anche all'assessorato alla salute che ha sostenuto l'iniziativa e anche ad Admenta, così citiamo tutte perché è una rete. Dottor Boffi, grazie. Dottor Dragani, grazie per questi geni che ci fanno impazzire. Buona giornata a voi, a domani. Essere e benessere.